Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano. Accensione semafori 4, 5 allo spegnimento, via del Gran Premio di Gran Bretagna che parte adesso con Kimi Räikkönen che ha un buono spunto, riesce a attaccare Lewis Hamilton che va a chiudergli la porta in faccia e Hamilton transita davanti a Kimi Räikkönen che ha avuto un ottimo spunto. Attenzione a Verstappen che già all'attacco delle due Ferrari con Sebastian Vettel, prima superato e poi a recuperarsi la terza posizione. Lentamente con Bardon che lo ripassa molto lento, attenzione problemi per Kimi Räikkönen, non sappiamo se è un lungo o un problema gomma, della macchina, mi sembra una gomma che sia l'anteriore sinistra, sì. Colpo di scena per il leader del mondiale che procede lentamente anche lui con lo stesso problema, pancia foratura per Sebastian Vettel che è stato appena sfilato da Kimi Räikkönen che riconquista il podio. Lewis Hamilton arriva sul traguardo e vince il Gran Premio di Gran Bretagna come Jean Clark, come Alain Prost per la quinta volta in carriera. Gara, weekend, perfetti. Eccoci qui, io non so se è stata una domenica di sangue, sicuramente è stata una domenica grandi firme, quella che abbiamo vissuto ieri, così come oggi certamente è una domenica, meglio, è un lunedì di grandi domande. Allora, la prima domanda è se sta sfumando davvero il sogno mondiale della Ferrari di Vettel. Io sono molto pessimista, ma lo sono da qualche settimana, tra qualche istante sentiamo il maestro Leo Turrini. La seconda domanda che facciamo a tutti è se Federer è il numero uno tra gli sportivi di tutti i tempi, e dico sportivi, non solo tennisti, quindi ieri ha vinto l'ottavo Wimbledon, ma non è questo il punto. La terza domanda sembra di essere Ligabue, facciamo una citazione, chi prende l'Inter? E come si può vivere a Milano da tifosi dell'Inter quando dall'altra parte del naviglio comprano tutti, forse anche Morata e Belotti? 800 24 00 24 per prenotarvi, intervenire in diretta via telefono, 800 24 00 24 oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Ci potete vedere su due pagine Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, la pagina Facebook Tutti Convocati trattino Radio 24. Scrivete lì anche i vostri commenti, io vi leggo. Saluto Gianluca Carubbia, Vincenzo Campitelli, stanno già scrivendo. Saluto anche Leo Turrini, ciao maestro. Buongiorno, sono in coda sull'Apero Corbato. Oh. Sì. Chi c'è? Perché? Perché? Mi è scoppiata una gomma Pirelli. Devo dire che evidentemente c'è qualcosa che non torna nella relazione tra il gruppo Fiat Chrysler e i cinesi della Pirelli, perché ieri sembrava veramente una scena. Räikkönen nei panni di Fantozzi e Vettel in quelli di Fellini, hai capito? I due minuti che hanno sconvolto il mondiale, un vuoto pneumatico, insomma. Sì, anche se secondo me, carissimo Leo, io l'ho detto, lo dico da qualche settimana, che è un grande sogno, ma temo sia destinato a restare tale, quello che Vettel possa essere mondiale. Io risponderò qui dalla coda della Pero Cormano, mentre col Crick tento di cambiare questa gomma, Pirelli, che non sempre i sogni muoiono all'alba. Allora, sì, sicuramente è vero che dopo Monte Carlo la Mercedes ha risolto i suoi problemi che paradossalmente, guarda, riguardavano proprio le scarpe della monoposto. Fino a Monte Carlo Hamilton e Bottas non riuscivano a far rendere le gomme subito e la Ferrari invece sì. Loro hanno recuperato, adesso si sono rimessi davanti. Bisogna vedere se i nostri ingegneri a Maranello, essendoci ancora mezzo campionato, ce la fanno a rispondere colpo su colpo. Sarebbe secondo me deleterio e inutile abbandonarsi alla rassegnazione, caro amico. Insomma, sarebbe taffaziano, sarebbe... Però il nervosismo di Vettel nelle ultime settimane, io ho l'impressione che tradisse la consapevolezza di quello che stava accadendo e che sta accadendo. Scusa, diamo una notizia di mercato. Ma poi ti devo fare io anche una grandissima domanda. Ma c'è un ultimo colpo del Milan. Milan ha comprato anche Vettel come autista del Pullman. Quindi, come ho sentito che dicevi, ma voi interisti, perché io sono interisti, noi prenderemo Raikkonen. Per guidare il pulmino, hai capito? Sì. Faremo la nostra parte, risponderemo colpo su colpo, come farà la Ferrari. Così riuscirai a dare un'utilità a Raikkonen. Io ieri pomeriggio, quando l'ho visto fare da tappo a Vettel in partenza, ti ho pensato intensamente, Leo. Ma io penso che tu sia malato. Io guarda, te lo dico, ma stai scherzando? Allora, voglio dire, Raikkonen ha fatto una grandissima gara, sì. È partito meglio di Vettel. Voi guardate le corse o che cosa? Cioè, aveva anche un altro passo in gara, aggiungo purtroppo, chiaramente Seb a Silverstone non si è trovato benissimo con la Ferrari. Prima degli episodi delle gomme, Vettel era dietro il suo compagno di squadra. Tra l'altro ti vorrei segnalare una cosa, che negli ultimi 5 Gran Premi, 3 volte in qualifica Kimi è stato più veloce del suo capitano. Questo è un tema. Adesso sto cambiando la gomma, sono un po' alterato, vuol dire che Raikkonen è un grande campione, perché Vettel lo è. Cioè, bisogna che voi vi mettiate d'accordo appunto con voi stessi, segui il ragionamento: se Vettel mette la macchina in prima fila e Raikkonen in seconda, quelli come te dicono alla Ferrari una seconda guida così non serve perché va piano. Se Raikkonen sta davanti a Vettel 3 volte negli ultimi 5 Gran Premi qualifica, cosa dite? Fa da tappo a Vettel. Ma scusate, ma adesso io andavo a cena con Tassi o Nuvolari. Che non aveva una seconda guida, non aveva bisogno di avere Raikkonen. Ma, no? Ma voglio capire qual è la vostra logica. Ma guarda, io ieri mi sono messo lì con il mio pezzettino di carta. Ho fatto due conti, ho scoperto che il leggendario Kimi Raikkonen da Monte Carlo in poi ha fatto un terzo, un quinto, un settimo e un quattordicesimo posto. Ha fatto meno della metà dei punti di Bottas, giusto per restare a quelli con i voucher. Ho capito, però evidentemente tu quando ti metti a fare i conti non li fai precisi. Ma funzionava la macchinetta, funzionava. No, perché in questi Gran Premi Raikkonen una volta, addirittura due, è stato buttato fuori da Bottas. È vero o non è vero? Sì. Una gara addirittura non l'ha fatta, contiamo anche quella, è colpa sua. Lui ha fatto due gare in meno per colpa di Bottas, il pilota pagato con i voucher. Comunque, io su questo l'ho già detto a te e a tutti quelli che sono dei grandi assertori della necessità di cambiare la seconda guida della Ferrari, no? Benissimo. La mia opinione è la seguente. Se ci mettiamo il ragazzino francese Leclerc, che tra l'altro dopo Budapest c'è una sessione di test, farà lui le prove per la Ferrari, che è una grande promessa, a 20 anni, va benissimo, sono d'accordo. Penso che questa sia una soluzione, perché andiamo a scommettere come ha fatto la Red Bull con Verstappen su un giovanissimo. Qualunque altra soluzione è una stupidaggine. Ma non lo dico io, lo dice Vettel, che anche a Silverstone ha detto in conferenza stampa, eccetera, se chiedono a me, ho già il compagno mi di tengo squadra. Kimi. Sì. Beh, ha detto, lo dice in tutte le salse, io non lo so. Poi ripeto, se voi pensate che ci si debba mettere per o con Hulkenberg, perché è chiaro che Hamilton non viene alla Ferrari se c'è Vettel, Ricciardo alla Ferrari, Vettel non se lo godrebbe dopo l'esperienza comune che hanno avuto la Red Bull. Quindi qual è la vostra opzione, oltre alla vostra malattia di orfani, di Alonso, eccetera, eccetera, che vabbè, me ne farete. Tu sai ragione. Che penso che Alonso è andato via male, quindi Alonso con la Ferrari ha chiuso, questo no, io penso. Ma per me, cioè, modestamente, guarda, ti giro alcuni messaggi. C'è... Ma come li girare? No, ma te li giro. C'è un amico che scrive via WhatsApp: Turrini ha ragione, però mi deve spiegare perché Kimi ha la metà dei punti di Vettel. L'ho già spiegato. Perché Bottas l'ha buttato fuori? Va bene. Ha fatto due gare in me. Allora, scusatemi, non voglio insistere perché sono rincoglionito. Ripeto, io andavo a 1000 miglia con Taruffi, eccetera, quindi vi dovete anche compatire. Allora, Raikkonen ha disputato due Gran Premi in meno per incidente. Perfetto. Vogliamo dire che potevano arrivare tutte e due le volte quarto, non sto a dire. Dietro le due Mercedes sono 24 punti in più. C'è stata un'altra gara nella quale ha avuto un problema tecnico. Quindi sono dei ragionamenti veramente proprio non so definire, perché qui fa caldo, sono in culo sul tappeto cormano, sudo, devo cambiare la gomma Pirelli. Sono dei liberi ragionamenti da ombrellone, carissimo Leo. Facciamo così, perché sull'Appero Cormano c'è anche poco segnale telefonico. Allora, purtroppo lo so che quando ho ragione mi tagli. Invece ti riagganciamo, c'è il traffico, così diamo le notizie anche sul resto della viabilità. Mi devi anche spiegare perché la Ferrari a 55 punti di distacco dalla Mercedes e Raikkonen ne ha 56 da Bottas, ma io so che questa cosa ti piacerà. 800 24 00 24, c'è chi scrive: io sto con Turrini tutta la vita, ma io do i numeri, Turrini da suggestioni secondo me, però lui è il maestro. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Allora, abbiamo riagganciato Leo, ci sei? Sì, Leo Turrini. Sono qua. Eccoti qui. Allora, io i numeri te li ho dati. Allora, ti leggo anche qualche altro messaggio. Però, scusa, numeri, sì. E la Mercedes ha vinto 6, la Ferrari 3, Raikkonen c'entra poco con questo. No, ma la Mercedes è chiaramente superiore. Mi sanguina al cuore, mi sanguina al cuore. Allora, ti leggo alcuni messaggi. Dario che dice: secondo me Kimi paga la poca simpatia che riscuote. Poi un altro che chiede a Leo, quindi chiede a te, se la Ferrari è in grado di sviluppare la macchina come la Mercedes o no. Che dimostrazione sta dando? Beh, questa è la grande scommessa dell'estate. La Ferrari sicuramente adesso deve reagire. Guarda, Budapest sarà molto molto indicativo tra due settimane, perché è un tracciato opposto a Silverstone, lentissimo, curve anche quelle molto laboriose, lì Vettel ci ha già vinto con la Ferrari 2 anni fa. Se la Ferrari a Budapest batte la Mercedes, allora è un mondiale apertissimo. Oh, mi dici due cosine anche su Federer? Secondo me il migliore di tutti, e non solo i tennisti. La cosa che ammiro di più di Federer, ovviamente a parte il talento immenso, è il suo essere ben educato, è una persona civile. Io non ricordo in una carriera così lunga gesti, momenti, episodi nei quali Federer abbia voluto ostentare nei confronti del resto del mondo il suo essere un fenomeno con la racchetta in mano. E credimi, questo è importantissimo, perché noi oggi viviamo un tempo nel quale le celebrità, che siano dello sport o di altri ambiti, ritengono che l'arroganza, la maleducazione, la mancanza di stile sia un pregio invece di essere un difetto. Ecco, io proporrei Federer come modello alle nuovissime generazioni, ribadisco, non tanto e non solo per la sua qualità di giocatore, ma proprio per la sua educazione, per il rispetto che manifesta sempre nei confronti degli avversari, del pubblico. È un personaggio adorabile. Poi sul quesito che hai fatto all'inizio e che hai ricordato, sei il numero uno. Bravo, io voterei Ali, per una ragione che Ali veramente, oltre ad essere stato anche un grandissimo della sua disciplina, dall'Olimpiade di Roma, campione del mondo dei massimi, quando il campione era uno solo, capace di riconquistare il titolo dopo 3 anni e mezzo di inattività, eccetera, tutto quello che sappiamo, ma direi lui, perché lui veramente ha cambiato il mondo nella sua battaglia culturale. Però sportivamente forse ha dominato meno la sua disciplina, meno di quanto abbia fatto Federer. Possiamo ragionare, però se ne può parlare, Leo, e anzi guarda, io te lo dico adesso, ti saluto, tanto ci risentiamo nel corso della settimana, questo è anche il filo conduttore di oggi, io voglio saperlo anche da casa. 800 24 00 24, sì, lì, aspetta, stai mentre lì, parlavo con te. Non ha comprato nessuno, ma la notizia che ti do è che nemmeno il Milan ha comprato nessuno negli ultimi 5 minuti. Vabbè, meno male, posso respirare. Quindi puoi respirare. Ciao Leo. Vale. Ciao, buon lavoro. Ciao. Grazie Leo Turrini. Dai, allora parliamo del Milan. Abbiamo, diciamo, accorciato noi, perché siamo a metà luglio. L'hai sempre detto che per l'attaccante. Allora, questo era Mirabelli, poi lo recuperiamo. Saluto Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia. Ciao Michele. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Oh, qualche domanda da farti così veloce. Intanto il Vai. Milan non ha comprato nessuno negli ultimi minuti. No, però potrebbe aver offerzionato qualcuno nei prossimi 5. Cioè? No, scherzo, però ovviamente l'attaccante ormai è un giro a 3, come ha detto anche Passone. In questo momento possiamo dire che Morata è più vicino al Milan rispetto a Belotti e Aubameyang, anche se da quello che mi risulta Mirabelli piace sempre molto di più a Aubameyang. Cioè, io ieri ho scritto anche su Twitter, quando ho sentito Fassone dire ci piacciono Morata, Aubameyang e Belotti, vediamo chi dei tre arriverà, l'avesse detto un mese fa si sarebbero scapottati le risate in tanti. Questa è la grande rivoluzione dell'ultimo mese. Sono d'accordo perché il Milan ha fatto i fatti e ha dimostrato con i fatti e non con le chiacchiere. 210 milioni di euro significa che Fassone e Mirabelli sono stati molto molto bravi, mi sembra un dato di fatto, soprattutto con il colpo di teatro Bonucci. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che hanno una disponibilità economica e nessuno di noi ci credeva realmente e seriamente. Dopo aver acquistato il Milan, dopo aver speso tanti soldi per il Milan, avere tanti soldi per fare una campagna acquisti così importante, anche in tempi mirati, secondo me è qualcosa di importante. Però credo che il campo dirà qualcosa di diverso, perché per mettere insieme tanti calciatori tu non puoi avere un effetto immediato già in questa stagione, ma sul biennio il Milan potrà togliersi grandi soddisfazioni. Sì, poi in tanti chiedono come fai a spendere se sei indebitato. Noi un po' l'abbiamo spiegato settimana scorsa, torneremo a spiegarlo ancora nei prossimi giorni anche con Marco Bellinazzo, però fondamentalmente Fassone sta facendo in un'estate quello che potrebbe fare in 3-4 e io non, a me non piace, ma lo uso perché l'ho usato in passato, il termine scommessa. È una scommessa sportiva e in parte finanziaria, il che non significa portare poi eventualmente il libro in tribunale, ma significa che quest'anno il Milan si gioca tantissimo, si gioca tutto, e se le cose non dovessero andare come Fassone, Mirabelli, i tifosi si augurano, tra qualche mese magari stiamo qui a parlare di un altro cambio societario. È vero che Cairo, carissimo Michele, è arrabbiato con Fassone perché ha nominato Belotti, o è solo un gioco delle parti? Io ho l'impressione che Cairo lo venderebbe anche volentieri, però questa è una mia impressione. Conosciamo tutti il personaggio, conosciamo tutti Urbano Cairo, che fa molto molto bene il suo lavoro. Non si può arrabbiare se nomina il Milan un suo giocatore, anche perché lo nominano tutti, lo nomina il Chelsea, non è un problema se parla, anzi crea valore. Quindi ha fatto un favore Fassone a nominare ulteriormente Belotti. Io credo che il Torino, se avrà una proposta seria, 70-80 milioni, il calciatore lo darà via e quindi non ci saranno tanti scrupoli. Per quanto riguarda quello che dicevi tu prima, io sono perfettamente d'accordo con il tuo ragionamento. Il Milan fa una scommessa economico-finanziaria sportiva. Perché? Se lo fa è perché l'anno prossimo ci sarà la nuova Champions League con 4 posti per le italiane. Il Milan, se rientra nelle prime 4, ha raggiunto l'obiettivo. Se il Milan non dovesse rientrare tra le prime 4, allora sarebbe davvero un disastro sportivo, economico, finanziario. Questo sì. Giancarlo da Pavia ci dice: se sappiamo che Keita ha un accordo con la Juve, mi brucia la domanda successiva. Siccome Keita ieri è stato a Milano, se è stato qui per fare un preaccordo con l'Inter. Ma lì non c'è bisogno di far muovere Keita. Noi sappiamo benissimo che Walter Sabatini è molto molto molto molto amico, anche qualcosina in più, di Calenda, che è il procuratore di Keita. Secondo me, se dovesse Keita andare all'Inter, come sembra, non è un bel messaggio per i tifosi nerazzurri. Sabatini deve fare le trattative di mercato a prescindere dai suoi amici o nemici. Io credo che Keita sia un buon giocatore, lo voleva il Milan, l'hanno tenuto in caldo, in cottura, proprio per portarlo all'Inter. Quindi credo che ci siano grossi margini per fare questa operazione, anche perché quel calciatore all'Inter serve con quelle caratteristiche. Però c'è sempre il punto di domanda: cosa farà e se andrà via a quanto Perisic? Che andrà probabilmente via, insomma, nel fine settimana c'è stata la storia del dentista, cioè, qualcuno ha ironizzato, il suo dentista è a Manchester. Può darsi, però bisogna capire quanto costa curarsi un dente. Questo in questo momento è quello che conta di più, perché il dentista può essere a Manchester, ma se il dentista di Manchester non mette sul tavolo o sul lettino dal dentista qualche soldino in più, credo che l'Inter non potrà scendere a compromessi. Ibra al Milan è possibile? Assolutamente no. Poi, sull'aereo che giovedì porta la Juve negli Stati Uniti per la tournée, quanti ne salgono tra Szczęsny, Cancelo, Matic e Bernardeschi? 2 su 4, 1 su 4 dei nomi che hai fatto tu. Sicuramente Bernardeschi è una trattativa che si chiuderà. Si darà per 40-42 milioni di euro più bonus, che arriverà a 46. L'accordo con la Fiorentina c'è, l'accordo con il calciatore che è assistito dall'avvocato Beppe Bozzo c'è. Questa mattina uno striscione contro Bernardeschi a Firenze c'era anche quello. Io credo che con tutte queste situazioni messe insieme velocizzeranno la cessione di Bernardeschi alla Juventus. Massimo 7-10 giorni l'operazione credo che si chiuderà. Allora, questa mattina Ferrero, presidente della Sampdoria, ex presidente, perché poi adesso è decaduto, patron della Sampdoria, sulla vicenda Schick. È sanissimo, quello che gli hanno trovato equivale a un raffreddore. Se vogliono tirarsi indietro, lo vendiamo a 4 club che sono pronti a prenderlo. Come va a finire? Sicuramente, io credo che Ferrero a quei soldi vuole i soldi promessi dalla Juventus. Il ragazzo sicuramente avrà bisogno di accertamenti ulteriori, perché con la salute non si scherza, e di questo neanche vogliamo parlare per sapere preciso di cosa si tratti. Però ovvio che la Juventus di fatto si sta tirando indietro, Schick e la Sampdoria e Ferrero in persona non vogliono che si tiri indietro. Io credo che comunque, ovvio, ci sono altre 400 squadre pronte a prendere Schick, non so se però, soprattutto dopo questo danno, tra virgolette, d'immagine, alle condizioni che già aveva chiuso la Sampdoria con la Juventus. Dimmi l'ultima cosa ed è questa: perché il Napoli ha perso Berenguer ieri, praticamente annunciato da De Laurentiis ai tifosi. Questa mattina alle 10, il comunicato va al Toro. Detto, allora, secondo me, da quello che mi risulta, ci sarebbe un problema potrebbe essere un problema di commissioni, e il problema è sempre quello che tu casomai chiudi l'accordo, raggiungi l'accordo e poi escono queste commissioni strane che poi ovviamente ti fanno lievitare il prezzo. Però io credo ancora che ci siano i margini per ricucire, tra virgolette, la ferita e lo strappo. Grazie Michele. Grazie, ciao ragazzi. Grazie Michele Criscitello, direttore di Sport Italia. Allora, ci sono Carlo da Verona, Riccardo dalla provincia di Frosinone, almeno uno riusciamo a farlo. Carlo. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Io ho bisogno veramente di un chiarimento. Il Milan spende 211 milioni fino adesso, più ne ha 70 per prendere un altro attaccante. Sì. Senza essere in Champions, senza soldi, senza niente. La Juve, dicono, 500 milioni di fatturato, Champions, soldi, cessioni, e non riusciamo a comprare nessuno. Cioè, è un problema oggettivo dei dirigenti juventini che si sono trovati impreparati alle uscite che hanno avuto e alla preparazione del mercato? La Juve non è che non riesce a prendere nessuno. La Juve ha preso Douglas Costa, intanto che è un giocatore di livello assoluto, e che l'anno prossimo farà benissimo in Italia, e la Juventus prenderà anche altri giocatori e spenderà tanti soldi. La Juventus non ha un problema di liquidità. Il Milan in questo momento, lo abbiamo detto, sta facendo una scommessa sportiva e finanziaria, cioè la scommessa di fare una squadra che l'anno prossimo entra in Champions, così da poter consentire l'avvio di un ciclo, di un progetto. E lo sta facendo anche nell'ultima estate in cui ha le mani libere per farlo, perché poi finirà anche il Milan sotto il controllo delle regole dell'UEFA, cosa che in questo momento può permettersi di non seguire. Questo sta succedendo, ma la Juventus nelle prossime settimane, anzi già nei prossimi giorni, si muoverà, e si muoverà con abbondanza. Riccardo, la provincia di Frosinone. Dai che riusciamo, Riccardo. È caduto? Allora, ci fermiamo per un paio di minuti. 800 24 0024, vi aspetto. Arriva il maestro Paolo Condò. Tutti convocati. I vulcani sono montagne arrabbiate? Gli antichi romani facevano il bagno nel Tevere? I paesi sono tutti uguali o tutti diversi? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Torna a Terra in Vista con l'Italia spiegata a mio figlio. Parleremo delle tante diversità dell'Italia attraverso le città, i fiumi, le coste, le montagne, le isole. Cercheremo di capire insieme perché l'Italia è un paese davvero unico. Insegniamo anche a fare la pizza, quindi? No, dai, pizza e mandolino no. Terra in Vista, l'Italia spiegata a mio figlio, con Telmo Pievani e Federico Taddia. Ogni domenica alle 12 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Ci dispiace se il Torino è in ritardo, ma non so di che cosa, magari noi abbiamo in mente una serie di attaccanti, stiamo chiedendo informazioni, come io parlo col Torino e sanno che Belotti è un giocatore che noi stiamo attenzionando, perché nel senso che in base alle cose che noi possiamo fare, quindi sappiamo la situazione di Belotti, di tanti nomi che sono già usciti sui giornali, avete detto voi, ma anche tanti nomi che non sono usciti, quindi poi alla fine il mercato è lungo. Questo Mirabelli oggi, microfoni di Premium Sport. Mirabelli, direttore sportivo del Milan, 800240024. Abbiamo ancora un'ora da passare insieme. Ricordatevi che la domanda è: Federer è il numero uno come sportivo di tutti i tempi? Per me sì, fra un pochino sentiamo anche il professor Paolo Condò. Ne stanno arrivando tanti di messaggi che lo incoronano. C'è anche chi ci dice: secondo voi è il numero uno perché ha vinto 8 Wimbledon e allora Nadal ne ha vinti 10 di Roland Garros. Ma Nadal è uno dei motivi per cui Federer è il numero uno di sempre, perché ha avuto anche un avversario grandissimo. Io almeno ho questa opinione: non si può essere grandissimi senza avversari altrettanto grandi. Riccardo, la provincia di Frosinone. Riccardo. Sì, salve, buon pomeriggio. Pronto? Sì. Ecco, mi senti? Scusa, sì, sento anche il navigatore. Vai, Riccardo. Esatto. Vi seguo sempre, per me se non è diretta il podcast, considerate questo. Grazie. Oh, a proposito, da oggi, per chi si fosse perso la diretta, tutti convocati va anche in replica alle 21, versione leggermente più corta di un'ora, ma ci potete sentire anche alle 21. Prego, Riccardo. Ok, eccoci qua, una buona notizia anche questa. Niente, io volevo, mi riallaccio un attimo al discorso della Ferrari, volevo far presente solo una cosa. È vero che non è mai stato tanto battagliero Vettel, però sembra che quando viene a contatto con Verstappen un pochettino di paura gli viene. È vero che Vettel ha tutto da perdere e Verstappen forse sfrutta anche questa situazione, però a volte sembra un po' remissivo in alcune situazioni. A me ieri non è parso, Riccardo. Poi quando sei dietro a Verstappen è difficile, e alla fine ieri l'errore di la gara di Vettel si è tutta consumata in quella partenza in cui è rimasto dietro a Verstappen. Poi dopo da passare è difficile, no? E ci ha provato in tutti i modi, e poi ha anticipato la sosta in box, e poi c'è anche un po' di sfiga, e poi c'è però che da qualche settimana la Mercedes è semplicemente superiore. Filippo dalla provincia di Vicenza. Filippo, buongiorno. Vai. Senta, io vorrei tornare sul paragone che ho sentito fare prima tra Roger Federer e Mohamed Ali. Sì. Allora, io sono un appassionato sia di tennis che di pugilato, li conosco bene tutti e due, e dal punto di vista della classe e del talento sono due personaggi meravigliosi da vedere in campo e sul ring, però come personalità bisogna dire certe cose che tanti anche forse non lo sanno. Mohamed Ali non era semplicemente contro il razzismo, lui era un razzista al contrario, cioè lui voleva la superiorità dei neri, e non solo, era un estremista islamico, cioè lui, andatevi a rileggere certe sue dichiarazioni, cioè io direi che è giusto confrontarli dal punto di vista tecnico, ok, dal punto di vista della bellezza che esprimevano in campo e sul ring, ma dal punto di vista umano è vero che lui era, ha segnato un'epoca, Mohamed Ali, anche fuori dal ring, eccetera, è stato un personaggio per tante cose, però non positivo, non solo positivo. Ricordiamo, mi lasci finire un attimo, perché anche le opinioni che aveva Mohamed Ali, andatevi a rileggere le opinioni di Mohamed Ali di Martin Luther King. Andiamo a rileggere tutto. Vabbè, ognuno può avere le sue opinioni, poi che Mohamed Ali abbia segnato un'epoca anche fuori dal ring, adesso a me pare incontestabile. Noi il paragone poi lo facciamo soprattutto tecnico, però mi rimetto al giudizio di Paolo Condò. Ciao Paolo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Hai sentito? Dimmi la tua. No, allora il nostro ascoltatore diceva che Mohamed Ali era un estremista islamico. Bisogna contestualizzare le situazioni dell'epoca. Noi ora, quando pensiamo agli estremisti islamici, pensiamo naturalmente al terrorismo e ad una cosa che ci fa molta paura e che ha fatto una grande quantità di vittime, ma negli anni 60 e 70 era una cosa completamente diversa, era un movimento che faceva parte del movimento antirazzista in America, e quindi mi sembra abbastanza scorretto richiamare adesso l'estremismo islamico nel suo giudizio. Mohamed Ali è una persona che ha pagato lui le sue idee, e quindi io lo ritengo un grande, non soltanto dal punto di vista sportivo, questo è automatico, ma anche una delle grandi personalità del secolo scorso che hanno fatto progredire il mondo verso verso quello che, sì, che poi è diventato. Poi Paolo, io credo che ogni opinione forte abbia delle sfumature che possono non piacere, che possono essere discutibili. Questo è normale, però ormai però noi su Mohamed Ali... tutto contestualizzato. Esatto, è quello che dicevo prima, su Mohamed Ali diamo ormai un giudizio storico, anche considerato anche il fatto che non è più tra noi. E io trovo che il giudizio storico sul personaggio Mohamed Ali sia estremamente positivo, estremamente importante, anche al di là del puro fatto che è stato uno dei più grandi fuori classe della storia nel suo sport. Venendo all'aspetto tecnico, trovo giusto accostare a Mohamed Ali Roger Federer, perché mettersi a disquisire su quale sia stato il più grande sportivo di tutti i tempi ci porta automaticamente a scegliere uno sport, e quindi se ti piace il tennis dici Federer, se ti piace il calcio dici Pelé o Maradona, se ti piace la boxe dici Mohamed Ali. Ecco, però inserire Roger Federer tra i 10 più grandi sportivi della storia, e qui naturalmente penso a Jesse Owens, guarda, c'è chi cita Michael Jordan, Bolt, penso a Michael Jordan naturalmente, Michael Phelps, esatto, siamo quei 10 nei quali probabilmente di italiano potremmo considerare Valentino Rossi, ecco, sì. Sicuramente è stato uno dei 10, cioè non è che abbiamo aspettato ieri naturalmente per decretare questa elezione, però no, è chiaro no, che non serviva torneo Wimbledon dopo di ieri. Torneo, vittoria dopo vittoria, siamo sempre più felicemente sconvolti da quello che ci ha regalato, ci regala così. Non serviva Wimbledon di ieri, però è anche vero che ha allungato e ha messo un'altra bandierina in termini di longevità, e anche questo è qualcosa su cui si misura la grandezza assoluta di questo campione. Tu ad esempio hai nominato Valentino Rossi, che ci fa godere praticamente tutte le domeniche, ma che ha vinto l'ultimo mondiale nel 2009. Sì, però continua a lottare, cos'era, 2 anni fa non c'è riuscito soltanto per il famoso incidente con Marquez, perché sennò avrebbe vinto il mondiale a distanza di quanti erano a quel punto 6 anni dall'ultima volta, e comunque quest'anno rimane in lotta per il mondiale. Poi è chiaro che vincere è una cosa diversa dal lottare anche fino all'ultima gara per vincere. Vincere è la cosa più importante ed è quella che ti consegna definitivamente alla leggenda. Però io comunque, insomma, Valentino lo considero nel ristretto gruppo degli atleti, anche se naturalmente chi fa motori è un atleta un po' sui generis, di chi compete, ecco, diciamo così, di chi compete. Non dimentichiamoci mai che i motori non sono ammessi alle Olimpiadi, per dire, a proposito della differenza tra gli sport motoristici e gli altri sport. Un giorno forse metteranno alle Olimpiadi anche la specialità del calciomercato, chissà. Dopo sentiamo Mirabelli su Morata. Volevo capire da Paolo Condò se il Milan estate 2017 gli ricorda per impatto il Milan estate 1986, quindi il primo Berlusconi che portò Donadoni, Giovanni Galli, Massaro, Galderisi, Borgonovo, poi prese anche Cimino e Bonetti, per carità, perché non si può essere perfetti, però diede quell'impressione lì. Bonetti soprattutto era molto valutato all'epoca, sì. Per dire. Naturalmente la campagna acquisti che sta facendo il Milan in quest'estate è qualcosa che va al di là di ogni possibile previsione e di ogni sogno per i tifosi rossoneri. Calcolando che ormai crediamo a tutte le cose che vengono annunciate, che arriverà anche la grande punta, ecco. E come fai a non crederci, Paolo? Come fai a non crederci a questo punto? Noi abbiamo esercitato un sano scetticismo, però. No, beh, allora voglio dire, noi abbiamo esercitato uno scetticismo prima per il closing che è durato tantissimo tempo. Esatto, se ci metti dentro anche Mr. B, è durato un paio d'anni. È chiaro che poi adesso oggi sulla Gazzetta Marco Iaria ha spiegato molto bene le questioni, i motivi finanziari per i quali questo strepitoso, perché è strepitoso, mercato del Milan è possibile. Ecco, è chiaro che, ecco, è una cosa che io avevo detto prima del mercato, avevo, insomma, le previsioni basate sul passato, cioè sulle cose che abbiamo visto in passato, mentre questa, ecco, tu la paragoni alla prima estate di Berlusconi, ecco, secondo me è anche superiore, perlomeno come quantità. E avevo pensato che il Milan si dovesse dare un calendario di ambizioni, cioè che nella prima stagione dovesse fare la squadra per puntare ai primi quattro posti, ai posti della Champions, e poi nella seconda puntare allo scudetto. Adesso secondo me è realistico chiedere a Montella, non chiedere lo scudetto, ma chiedere di lottare per lo scudetto. Sì, saltato qualche tappa. Saltato qualche tappa. Assolutamente. Il mercato del Milan di quest'anno è un mercato che sta, ripeto, con la punta sarà assolutamente una squadra da lotta per il titolo. Ed è comprensibile che venga anche vissuto con un certo disagio dagli altri, a partire dai tifosi dell'Inter, credo anche dai dirigenti, che pure ostentano serenità. Paolo, io ti chiedo un minuto di pazienza, perché volevo chiederti invece di Allegri, della Juventus, Allegri che tu conosci benissimo. Io lo dico, poi voglio sapere cosa ne pensi. Secondo me era prevedibile, cioè andando a Cardiff la Juventus sapeva che non era come andare a Berlino. Credo che sarà molto più complesso il lavoro di Allegri quest'anno rispetto al 2015, però voglio sapere cosa ne pensi tu, Paolo Condò. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... convocati. Intanto state scrivendo in tantissimi col nome del più grande sportivo di tutti i tempi, ve ne faccio altri. Allora, Alex Zanardi, Stenmark, Mark Spitz, Schumacher, andate avanti, 800 24 00 24, pure 349 238 6666. Paolo Condò, allora, per chiudere sulla Juve, che a 44 giorni da Cardiff non ha ancora superato evidentemente lo shock di quel secondo tempo e di quei 15 minuti di intervallo tra il primo e il secondo tempo, anche se poi girano mille ricostruzioni tutt'altro che attendibili, ho l'impressione che non sarà facile per Allegri. No, beh, naturalmente no, anche perché vedo crescere una concorrenza, cioè ha un Napoli che per me è già pronto per competere per lo scudetto. Si è aggiunto come minimo il Milan e quindi avrà due avversari di grande rilievo, mentre sto ancora aspettando le mosse che sicuramente arriveranno di Roma e Inter, però arriveranno anche le mosse della Juve, credo. Io non penso che il mercato si esaurirà con Douglas Costa ed eventualmente Bernardeschi, che comunque sarebbe un eccellente acquisto. Credo sia però soprattutto una questione di gioco, di equilibrio e di leadership. Cioè quell'incastro già non fu semplice dopo Berlino, ricordiamo tutto l'inizio della stagione successiva della Juventus. Quest'anno però, ad esempio, in tanti saranno portati a vedere la cessione di Bonucci come una vittoria di Allegri, che però significa anche, si porta dietro anche una grande responsabilità. Allora, io naturalmente, Allegri ha fatto con me l'intervista, abbiamo registrato il 14 giugno, quindi poco meno di due settimane dopo Cardiff. Non erano ancora uscite le ricostruzioni sul casino negli spogliatoi e quindi non gliel'avevo potuto chiedere, però gli avevo chiesto del suo rapporto con Bonucci e lui mi aveva risposto che Bonucci per lui doveva essere il capitano futuro della Juventus. Quindi, se la vogliamo vedere, potrebbe essere o una bella bugia, non mi scandalizzo, gli allenatori dicono bugie quando parlano degli argomenti più sensibili, oppure qualche cosa poi nei giorni seguenti è cambiato. Naturalmente io, dopo che Bonucci è stato venduto al Milan, che la cosa mi ha sorpreso, proprio forte della cosa che mi aveva detto Allegri, ho preso le mie informazioni, non con Allegri, con altre persone dell'ambiente juventino. Ho preso le mie informazioni per capire esattamente quello che era successo. E la cosa che mi è stata detta è che all'interno dello spogliatoio ci sono stati diversi giocatori contenti di questa soluzione, cioè del fatto che Bonucci, oltre che con l'allenatore, col quale è vero che i due non si erano mai presi, ecco, mi hanno detto che anche altri giocatori erano un po' stanchi della personalità sempre, come dire, molto ridondante che Bonucci estrinsecava nello spogliatoio. Ecco, in questo senso, quindi io posso anche pensare che nel momento in cui, ripeto, o mi ha raccontato una bugia belle buone e pace, succede, oppure in quel momento la situazione era ancora, diciamo, sospesa, ricomponibile. O ricomponibile, oppure dovevano ancora essere sentita una parte dei giocatori importanti dello spogliatoio, così che ci sia stato una specie di pollice verso a un certo punto. Potrebbe anche essere successa una cosa del genere. La cosa che mi aveva detto comunque nel backstage dell'intervista Allegri, quando si parlava non soltanto di Bonucci ma di diversi giocatori a proposito delle richieste che c'erano state da club esteri, per esempio si parlava del Chelsea o del Manchester City per Bonucci, ma ripeto anche di altri, lui mi aveva detto in realtà a quanto risulta a me ce ne sono molte meno di queste richieste dall'estero di quante passano sui giornali. Sai, ma queste poi sono le bugie di mercato, ma non quella di Allegri, quelle che vengono fatte circolare da società, procuratori e tutti quelli che muovono quel mondo. Grazie Paolo. Grazie a te, ciao Giovanni. Grazie Paolo Condò, è davvero sempre un piacere. Andiamo sulle strade del Tour de France. Pier Augusto Staggi, ciao Pier. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi 16ª tappa, non dovrebbero esserci scossoni particolari, ma usiamo ovviamente il condizionale. Poi domani e mercoledì ci sono le battaglie campali sulle Alpi. Si è ripartiti con Froome in maglia gialla, Aru a 18 secondi, Bardet a 23, Urana a 29, Martin a 1,12, Landa a 1,19 in un Tour de France che più bello non si può. Froome, che dopo ieri ha detto mi sento un sopravvissuto, ha avuto un problema tecnico, ho perso quasi un minuto, poi è rientrato. Tanti dicono è stata l'occasione persa da Aru e Bardet. Allora, intanto Giovanni, mi corre l'obbligo, sei andato avanti, stai correndo più che non, che fa già paura. Oggi è giorno di riposo, domani ricomincia il cammino per il Tour. E quello che hai detto tu è giustissimo. Chris Froome ieri ha confermato di aver attraversato un momento di grande paura, però devo dire che dalla grande paura poi lo spavento l'hanno avuto gli altri, perché la reazione che ha avuto la maglia gialla, cioè la facilità con la quale ha medicato un momento di grande difficoltà dovuto tra l'altro per un guasto meccanico, la rottura di un raggio della ruota, che è avvenuto in una fase molto concitata e delicata della corsa, dove c'erano le AG2R, la squadra di Romain Bardet che stava facendo l'andatura. Lui ha avuto questo problema, ha avvertito il compagno di squadra Kwiatkowski che gli ha dato la sua ruota e lui prontamente è andato all'inseguimento. I cronometristi addirittura hanno valutato questo gap di intorno ai 40 secondi. Beh, lui li ha divorati. Certo, con una squadra forte, però... Perché il tema è quello, cioè se sia lui o se abbia fatto uno sport diverso, una sorta di cronosquadre. Lui ha fatto una cronosquadra, ma devi avere le gambe per star dietro ai compagni di squadra, perché in salita non è che prendi tante le scie, i compagni di squadra ti danno il ritmo, ti danno il punto d'appoggio, la scia c'è relativamente. Il problema è che mi sembra, ahimè, lo dico, io spero di essere totalmente smentito dopo domani, perché domani è una tappa interlocutoria, come si dice in gergo, di fatica, e quindi per ore di stella, ma non dovrebbe succedere nulla, salvo colpi di scena, logicamente che quelli sono sempre tallati. Mercoledì invece c'è il primo tappone alpino, c'è il Galibier, ma sapete che tra l'altro è la vetta più alta del Tour de France, arriviamo a 2600 metri, lì non si scherza, lo scollinamento, poi una lunga discesa di 30 km, lì si vede lo stato di salute di tutti. Io vedo, come ti stavo dicendo prima, un Froome in crescendo, cioè che arriva alla terza settimana in condizioni ottime. Mi auguro che stiano bene anche Romain Bardet, perché loro due potrebbero avere interessi comuni, che l'interesse comune è quello di provare a scardinare la forza del Team Sky e di Chris Froome, che probabilmente si è presentato a questo Tour de France all'80% della condizione, sta raggiungendo il top proprio nella terza e ultima settimana, quella decisiva. Ricordiamo che Bardet e Fabio hanno la necessità di dare un colpo forte al padrone di questo tour, perché devono andare abbondantemente in vantaggio, cioè mettere... Quanto gli serve? Un paio di minuti gli servono? Almeno un minuto e mezzo, perché ricordiamo che sabato prossimo a Marsiglia c'è la cronometro che sorride assolutamente a Crespo. Però c'è il Galibier mercoledì, e giovedì c'è l'arrivo in cima all'Isoar, e qui non si scherza, sono salite vere, sono salite di fatica, sono salite con grandi pendenze e soprattutto ad alte latitudini, dove la respirazione si fa sempre più difficile, quindi devi stare molto molto bene. Guarda, scrive un amico che la Sky è inattaccabile, Aru e il francese sono nulli a cronometro e l'unico vero pretendente è Uran. Questo amico che sta seguendo, io spero come lui che sbagli, cioè, che sbagli, però dice il vero, perché Rigoberto Uran, che tra l'altro anche lui è senza squadra, no, perché, lui, perché uno degli argomenti leitmotiv è però Fabio non ha la squadra. Ci sono corridori che corrono da solo. Vorrei ricordare Aldo Molena ha vinto un Giro d'Italia senza un compagno di squadra, correndo e rincorrendo. E tant'è vero che buon Fabio è andato in maglia gialla sostanzialmente curando e attaccando Froome. Se tu hai le gambe e stai dietro a Froome, te la puoi giocare. Soprattutto se hai le gambe per staccarlo su queste due salitone. Sì, questa è la settimana in cui la squadra può contare meno. Ci sono quelle grandi, certo, rese dei ma conti. Una squadra serve, la squadra serve perché ti facilita se tu vuoi fare una corsa d'attacco o comunque mettere in difficoltà i tuoi avversari. Come ieri, molti si domandavano, ma poi c'è una poi però Pier, poi adesso abbiamo il GR, quando arrivi su queste salite come quelle che vedremo giovedì e venerdì, lì poi conta semplicemente quanto ne hai. Pier, tanto ci sentiamo domani, andiamo avanti a fare le nostre chiacchierate sul Tour de France. Ciao Pier, grazie. Certo, volentieri. Ciao a tutti. Allora, c'è il GR 800 24 00 24, restiamo in onda fino alle 15:30, riapriamo parlando di Re Roger. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Te ne vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Convocati. And the Wimbledon champion of 2017, Roger Federer. Now we have to talk records here, because you won your first Grand Slam here. Over the years you've been breaking other champions' records, but now you have your own record, the 8th Wimbledon title, the only man in the history of Wimbledon to ever win it 8 times. Yeah, I mean, I guess it's, again, it's disbelief, you know, that I can achieve such heights. And, you know, I wasn't sure if I was going to ever be here again in another finals, you know, after last year. And I've had some tough ones here, losing to Novak in 14 and 15. But, you know, I always believed that I could maybe come back and do it again, and if you believe you can go, you know, really really far in your life, and I think I did that, and I'm happy I kept on believing and dreaming, and here I am today for the 8th. It's fantastic. Come si fa a non voler bene a Roger Federer? Il nostro sondaggione è aperto, rimane aperto fino alle 15:30. 800 24 00 24 per prenotarsi, di intervenire in diretta. Sono già Sandro e Luigi, poi li sentiamo, oppure 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp. Siamo visibili su Facebook, la pagina di Radio 24 e quella di tutti i convocati trattino Radio 24. Insomma, siamo qui tutta l'estate. Saluto Paolo Bertolucci. Ciao Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Poi vi diamo anche la grande notizia oggi per il nuoto azzurro, eh? Qualche minuto di pazienza e vi raccontiamo che cosa è successo oggi a Budapest. Dicevo, Paolo Bertolucci, come si fa a non voler bene a Roger Federer? Io mi emoziono solo a sentire la voce, figuratevi un po' quando lo vedo giocare. C'è chi, sono i tanti che scrivono: un giorno ricorderò di essere vissuto nell'era di Federer. Beh, io l'ho detto ieri a fine delle cronache, ho detto che siamo stati strafortunati perché abbiamo avuto l'onore di poterli seguire da vicino, di poterli commentare. Sto parlando di lui e di Rafa Nadal, che sono due giocatori, due uomini, due persone che vanno al di là di quello che è il tennis. Poi Roger ha quel modo di fare, quella classe, quella linearità dei movimenti, che credo che sia, è uno sportivo che ha allargato talmente i confini del tennis e l'ha portato anche nei luoghi più remoti ed è amato da tutti. Sì, e tra l'altro è forse, o meglio, io credo certamente il migliore di tutti, anche perché ha avuto un avversario che a sua volta merita di stare sul podio dei migliori sportivi di tutti i tempi, parliamo proprio di Nadal. Sì, quando Nadal ha vinto 10 volte Parigi, cioè è una cosa che non ha dell'umano, assolutamente. Ma loro due, eppure nell'immaginario è un gradino sotto Federer. Io so che tanti tifosi di Nadal si arrabbieranno, però nell'immaginario è così. Ha meno tifosi, questo sicuramente, è un gioco, come dire, meno pulito, un po' meno elegante. Però loro due, che si stimano in una maniera incredibile, hanno sempre ringraziato l'altro, perché soltanto grazie alla vicinanza dell'altro sono stati costretti ad alzare sempre di più l'asticella del rendimento, e questo devo dire che è una fortuna, si sono spinti a vicenda. Un 2017 così era ipotizzabile per Federer, così si intende: due vittorie negli Slam, tanti tornei che minori non sono, diciamo la verità, forse anche il prodotto della crisi degli altri, oltre che della grandezza di Roger e anche di Nadal. No, nessuno poteva neanche minimamente pensare che questi due tornassero e portassero a casa tutti i Master 1000 e tutti i tre Slam. Era assolutamente impensabile. D'altronde, se gli altri, come dire, uno, Murray ha pagato sicuramente lo sforzo sovrumano che ha dovuto compiere lo scorso anno per raggiungere la vetta, e lo paga in termini fisici. L'altro si porta dietro questo problema al braccio già da diversi mesi e non voleva fermarsi, voleva andare avanti. E invece la bravura anche in questo caso di Federer e di Nadal è stata quella dell'anno scorso di capire che dovevano assolutamente fermarsi per diversi mesi, mettere a posto il fisico, perché se non si è al 100% fisicamente e mentalmente non si possono raggiungere certi traguardi. Sì, sta anche un po' cambiando la natura di questo sport, cioè con questa selezione dei tornei, degli obiettivi in una stagione. Noi tennisti siamo abituati a conoscerli come quelli che giocano più o meno sempre. Sì, ma è sbagliato, e tanto è vero che proprio Federer è stato il primo a insegnare agli altri la programmazione. Non si può giocare tutte le settimane, e men che meno quando si raggiunge una certa età, bisogna fissare determinati obiettivi e poi avere la bravura naturalmente di centrarli e di raggiungerli, qualità e non quantità. Sandro da Parma, Sandro. Sì, intanto un buon pomeriggio a tutti. Mi rifaccio un po' alle parole che sentivo adesso di Paolo Bertolucci, che seguo sempre su Sky. Sono convinto di una cosa, che volevo sentire anche la vostra opinione. Secondo me il fatto che Federer continui a insistere, a non mollare, a non appendere la racchetta al chiodo, può dipendere anche dal fatto che se Nadal, che ha davanti probabilmente qualche anno di carriera più di lui, se lo raggiungesse nella vittoria degli Slam, diventerebbe molto complicato e difficile dire che Federer è il più forte della storia. E lo dico io, che sono un appassionato di tennis e uno forse fra i pochissimi che non si è mai schierato né per Federer e né per Nadal, perché Nadal ha più vittorie nei Master 1000, ha più vittorie negli scontri diretti. Se dovesse un domani raggiungerlo nelle vittorie degli Slam, mi chiedo come faremmo a dire che Federer è il più forte della storia. Come faremmo? Io rispondo da profano, poi faccio rispondere Paolo Bertolucci invece da tecnico. Faremo, perché si giudica anche col cuore e con la pelle. Federer è il tennis, Nadal è straordinario, ma è un'altra cosa. Paolo? Sì, sono d'accordo. L'ho detto prima, però, che i due si spingono a vicenda e si ringraziano l'un l'altro ogni volta che si incontrano. È vero in parte quello che ci ha detto il nostro ascoltatore. Teniamo presente che Federer ha sempre fatto molta, ma molta meno fatica rispetto a Nadal. Nadal purtroppo chiede tantissimo al suo fisico ed è uno dei motivi per i quali durante la sua carriera ha dovuto sospendere 2-3 volte l'attività per un certo periodo di tempo. Quindi fa più fatica e io sinceramente faccio altrettanta fatica nel vederlo ancora così competitivo tra qualche anno. Sì, tu hai idea di quando la signora Mirka dirà stop a Roger? Mai. Perché ieri lui ha detto soltanto lei può dirmi, se me lo dice io ubbidisco e mi fermo. La signora Mirka qualche anno fa aveva commesso anche lei l'errore, come fosse stata una principiante, di spingerlo e di mandarla a giocare anche tornei minori in giro per il mondo. Poi ha capito che facendo così avrebbe soltanto abbreviato la carriera del marito. È la sua prima tifosa e credo che non glielo dirà mai finché Roger può esprimersi a questi livelli. Grazie Paolo. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie Paolo Bertolucci, piacere assolutamente nostro. C'è intanto chi scrive che è indeciso tra la Comaneci e Bubka nel mettere in fila i campioni di sempre. Luigi della provincia di Milano. Luigi. Saluti ai presenti che in ascolto. Vai. Io ho sentito tutti i nomi eccetera e mi sento in dovere di spezzare un paio di lance, anche se essendo il tour in corso, a Eddie Merckx. Nessuno l'ha detto, Eddie Merckx, 5 giri di Francia, 5 giri d'Italia, Lombardia, Parigi-Roubaix, tutto, anche vinceva anche le sagre del paese, talmente aveva voglia di vincere. Sì, Luigi, c'è chi l'ha scritto tra i vari messaggi, c'è anche chi ha scritto, adesso non riesco a ritrovare il messaggio, resta quell'ombra del doping. Che magari gli impedisce di essere poi il numero uno in assoluto, quello da portare come modello. Secondo me non esiste, ognuno ha la sua specialità. Come si fa a dire che Cassius Clay è meglio di Federer, per dire, o viceversa? Ognuno ha la sua specialità. In assoluto, secondo me, non si può fare. No, ma è un esercizio impossibile e forse anche inutile. Poi però ogni tanto viene la tentazione di farlo. Giulio da Ravenna, Giulio. Sì, pronto? Eccoci, dai. Ah, io volevo solo fare presente che in una carriera così lunga, in un periodo di tennis così stupendo, la RAI italiana TV non abbia mai trasmesso un attimo di tennis. Cosa ne dite? In che senso, perdonami Giulio? Viene solo su Sky. Sì. Io sono solo pagamento, non capisco che... Credo sia roba per la TV nazionale, secondo me un tennis però di questo livello. Io purtroppo ho qualche annetto, immagino come te, e ricordo che anche quando non esisteva la TV a pagamento, il tennis di Wimbledon, il tennis di Parigi non è che passasse tantissimo in chiaro. Lo vedevamo su Capodistria, lo vedevamo in altre maniere, ma non passava tantissimo sulla TV nazionale. A proposito, mondiale di nuoto sincronizzato a Budapest, oggi l'Italia ha raccolto un risultato storico, per la prima volta medaglia d'oro nel duo misto tecnico. Vi leggo i nomi: Giorgio Minisini e Manila Flamini hanno fatto un esercizio veramente strepitoso, avevano preso il bronzo 2 anni fa, oggi hanno vinto per la prima volta l'oro ed è giusto ricordarli. Adesso parliamo dell'Inter. Sono rassicurato in qualsiasi modo. È chiaro che poi abbiamo fatto dei discorsi e quando poi si prendono degli accordi, le cose bisogna poi mantenerle, e sono convinto che questo accadrà, perché quei 2-3-4 calciatori c'è da metterceli dentro, che non è detto che siano poi dei campionissimi, però sono di completamento per quello che manca a questa squadra, perché secondo me, dal mio punto di vista, qualcosa bisogna modificare. Nessuno ci può influenzare, saremmo fogli al vento, saremmo subito tacciati di fragilità psicologica, no? Io ho detto che non ritengo un modello. Certo. Questo tipo di campagna acquisti, pur riconoscendone la validità, pur riconoscendone tutto sommato i meriti, potrei dire, perché sono bravi, tempestivi, sono andati su buoni giocatori. Però parte da un presupposto diverso, la rifondazione di un gruppo. Noi non vogliamo rifondare questo gruppo, lo vogliamo integrare. Ci sono delle conseguenze temporali che funzionano così, si rischia di andare a fare del casino, cioè noi non siamo nelle condizioni di andare a spendere 50 su questo, 50 su quest'altro e viceversa, per cui bisogna guardare quello che sarà il momento giusto e quello che naturalmente strada facendo si può modificare, perché funziona così, insomma, ecco. Abbiamo una decina di minuti per misurare il polso ai tifosi dell'Inter. Tommaso Labate, ciao. Buonasera, ciao a tutti. Allora, tu in che partito ti iscrivi? Quello dei fiduciosi ad oltranza perché Suning ha promesso i grandi colpi arriveranno? Quello dei perplessi e c'è quello degli incazzati? Perché c'è anche chi comincia a dire, e poi il problema è quello, perché i cinesi del Milan comprano i nostri, che dovevano essere quelli più ricchi, no? Tommaso. Allora, io sto facendo come molti parlamentari di questa legislatura hanno fatto nelle aule di Camera e Senato, sto cambiando partito ogni giorno. Ero partito ovviamente tra i fiduciosi, proprio perché per la legge dei grandi numeri una volta abbiamo preso il Baresi sbagliato, era possibile che prendessimo anche i cinesi sbagliati, e quindi fiducia. Dopodiché poi è subentrata ovviamente un po' di incazzatura, ma derivante non tanto dalle mancanze che abbiamo avuto noi adesso, quanto per il fatto che ti trovi l'erba del vicino di casa che sembra Wimbledon, mentre noi abbiamo le erbacce. Mi riferisco ai grandi colpi del Milan. Adesso resto in una posizione attendista, anche perché sono convinto che alla fine un grande gruppo che è riuscito comunque entro il 30 di giugno, senza grandissimi esborsi, a risolvere la questione del fair play finanziario, io sono convinto che in serbo qualche vero colpo ce l'abbiano. Voglio essere fiducioso da questo punto di vista e sono, fra l'altro, lo ripeto, molto contento del fatto che si sia avviata una politica di acquisto di ragazzi del 2000 che quantomeno ci garantiranno, come dire, un futuro abbastanza sereno. Sono contento molto del fatto che si guardi a lungo periodo, preferisco questo che non che si facciano dei colpi, che so, alla Ibrahimovic, che prendi i giocatori di 35 anni. E poi però ti capita di sentire Spalletti che dice tre squadre sono davanti a noi, e probabilmente si riferisce a Juve, Napoli, Roma. Il Milan dice in questo momento c'è superiore, insomma va bene i colpi in prospettiva. Sì, io vorrei evitare soltanto che Spalletti è un grandissimo allenatore e ho molta fiducia nel fatto che comunque, come ha sempre fatto nel recente passato, sia in grado di prendere una squadra e di farla volare alto con i mezzi che ha. Molto spesso però, sentendo la sua voce, ho ancora quel richiamo di quelle risse da cortile che alla Roma, tra il cortocircuito tra una proprietà straniera, una città con grandi pretese, una squadra che non decollava e lui che ha un carattere fumantino, cioè mi sembra un po' che di assistere ieri a un inizio di trigorizzazione di Appiano Gentile, che è una cosa che sinceramente eviterei il peggio dell'Europa League. Sì, qualcuno ha ricordato qualche frase di Mancini, sibillina, un anno fa, all'inizio. Sì, lì ragionavamo due prospettive differenti, sì, sì. Con Mancini il rapporto si era consumato, Spalletti è appena arrivato, l'abbiamo cercato, ci vuole un po' di pazienza, secondo me. E per esempio le frasi ieri di Spalletti sui 3-4 innesti, che ovviamente non saranno campionissimi, ma ha detto lui, secondo me non è che sono state azzeccatissime, perché hanno messo da un lato l'accento su questo dialogo che c'è sulla società che sembra molto serrato, dall'altro anche a noi tifosi hanno fatto capire che devono arrivare 3-4, che non saranno campionissimi, quindi non è che, diciamo, il primo cocomero che ti mangi sulla spiaggia te lo mangi tranquillo. E speriamo in un rapido cambio di passo, ma io sono convinto che ci sarà, che qualcuno di forte lo prenderanno alla fine. Vediamo se Marco Barzaghi ti può aiutare. Ciao Marco. Buon pomeriggio a tutti. Ci sarà o no questo cambio di passo rapido nel mercato dell'Inter? Penso di sì, però prima bisogna vendere tutte le eccedenze. Questo mi sembra di aver capito che è il diktat di Suning a Sabatini Ausilio, quindi cercare, e non è facile, lo stiamo vedendo, di sfoltire la rosa di tutti quegli elementi che non fanno più parte del progetto, anche per non essere poi costretti a regalarli a fine mercato, cioè i vari Ranocchia, Santon, anche lo stesso Condogbia, João Mario Brozovic, insomma cercare di vendere una serie di giocatori per alleggerire anche il monte ingaggi, e poi anche perché appunto l'Inter deve mantenere il pareggio di bilancio, quindi penso che una prima accelerazione si avrà con la cessione di Perisic. Ecco, io la grande domanda che faccio io, ma che forse vorrebbe fare anche Tommaso Labate, è perché tutte queste cose nei mesi scorsi non sono state spiegate ai tifosi dell'Inter, no Tommaso, che hanno letto per mesi di campagne acquisti faraoniche, di colpi, di potenza, di obiettivi, addirittura di essere l'anti-Juventus. Non sono state spiegate, perché secondo me il ragionamento si è fatto molto in divenire. Noi abbiamo cioè Suninga a dicembre e gennaio non sapeva che doveva mantenere l'equilibrio di pareggio, questo intendo. Questo probabilmente lo si sapeva, e la cosa che comunque ci rasserena, lo provavo a dire prima, che la prima ghigliottina, cioè quella del 30 giugno, è stata superata senza grandissimi traumi. Cioè, in fondo abbiamo venduto Banega, abbiamo venduto Caprari, quindi ci sono entrate delle risorse senza che tu abbia già dovuto vendere i gioielli di casa. È ovvio, lo diceva il buon Marco Barzaghi poco fa, che l'eventuale cessione immediata di Perisic, alle condizioni che ovviamente congrue, e ti darà un abbrivio diverso verso il mercato. Però anche questa situazione mediaticamente non penso sia gestito male, perché se vale quello che vale dal fruttarolo o dal panettiere o al supermercato, cioè sapere che un giocatore comincia a tirar fuori il mal di denti per magari per evitarsi in amichevole o ad acuire il mal di denti, non è che ne faccia volare il prezzo di mercato. Esatto, Marco, per me è arrivato anche un messaggio chiaro dall'UEFA dopo i salti mortali di giugno, e quindi anche qui c'è stata un attimo una frenata, e la decisione anche di vendere prima di tutto, cercare di sfoltire la rosa di 4-5 elementi e poi comprarne altrettanti magari di un livello diverso o con altre motivazioni. Ma queste grandi promesse fatte a Spalletti, cui sta facendo riferimento in queste settimane, cosa erano, cosa sono? No, grandi colpi, una squadra in grado sicuramente di entrare in Champions League e poi di giocarsela a livello delle più grandi. Sicuramente le ambizioni sono grandissime, però ci sono anche dei vincoli che, finché non si ridiscuteranno tutti gli accordi con la UEFA, rimangono un attimo. Quindi vi sentivo prima, a me che ho respirato l'aria l'anno scorso e quest'anno mi sembrava di trovare più di un'analogia rispetto anche ai rapporti con Mancini. Mi sembra di aver colto una certa preoccupazione di Spalletti, insomma, che non ha ancora avuto quello che gli era stato promesso, e ormai siamo quasi a un mese dall'inizio del campionato. Sicuramente tutti i colpi del Milan lasciano abbastanza così un po' preoccupati. Sì, credo che quello sia un acceleratore della preoccupazione dei tifosi dell'Inter, cioè il fatto che il Milan sta facendo tutto quello che sta facendo, e c'è chi ci scrive, chi preferisce tra Morata e Belotti, e questo per cercare di spiegare qual è la differenza rispetto agli anni scorsi. E poi c'è anche chi scrive: l'Inter per la prima volta dopo anni sta volando basso e questa è la strada buona. Io sottoscrivo abbastanza, chiedo a tutti e due, poi vi saluto, Tommaso e Marco Barzaghi, tranne che poi manca un mese all'inizio della stagione. E va bene il silenzio operoso, come mi è capitato di scrivere, però è arrivato anche il momento di dargli un compimento. Sicuramente sì, bisogna fare qualcosa anche velocemente, perché adesso non voglio pensare a una tournée in Cina con l'Inter che dovrà affrontare squadre molto più avanti, molto più forti, un po' come l'anno scorso in America con Bayern Monaco, Chelsea, Borussia Dortmund. Magre figure, e non so come poi la possa prendere Spalletti, visto che doveva giocare 4 partite in 10 giorni con pochi elementi e solo Skriniar e Borja Valero come rinforzi dal mercato, con questo tormentone Perisic che spero non si porteranno fino a Nanchino. Sì, anche se l'impressione è quella lì. Grazie Marco. Grazie a voi. Tommaso. Guardate comunque come il calcio è bello anche per questo. Pochi mesi fa davamo mantella per l'allenatore scaricato a cavallo tra due proprietà, una che non lo voleva più, l'altra che l'avrebbe cacciato. Invece Mo Montella si trova saldissimo al comando di una squadra che francamente fa tremare le vene ai polsi anche solo a vederla schierata sulla carta dei giornali sportivi ogni mattina. Mentre Spalletti, l'uomo forte della Roma che è riuscito, fra virgolette, a rottamare Totti, a portare la squadra in Champions, arriva al secondo posto e che si trasferì a fare la grande avventura, la grande Inter, adesso vive un momento di fortuna alterna. Però io mai come quest'anno ho veramente fiducia nella proprietà, anche perché, ripeto, per la legge dei grandi numeri abbiamo preso il Baresi sbagliato, non possiamo aver preso anche i cinesi sbagliati. Grazie Tommaso Labate. Grazie a voi. Ciao Tommaso, ciao, grazie. Ciao. Abbiamo un minuto. Paolo. Rapidissimo su quello che dicevamo prima, i campioni in assoluto non esistono, ci sono i campioni del loro tempo come può essere Tomba nello sci, ho mandato anche un messaggio, e Cristiano Ronaldo del calcio. Poi io credo che invece, tornando al tennis, Federer ha insegnato a tantissimi, per esempio anche a personaggi come Djokovic, che secondo me, se non capiscono che hanno bisogno di, secondo me, di una bella pausa per poi nel caso riprendere. E vedo in Djokovic il peggior bugno, quando, se ti ricordi, finì nella sua carriera con risultati secondo me non positivi. Quindi il campione deve sapere capire anche quando ritirarsi, questo è il mio pensiero. Sì, però poi Djokovic ti potrebbe rispondere che se Federer e Nadal sono ancora lì, spazio per lui c'è, ha un talento diverso, ma resta comunque, se risolve i suoi problemi fisici, un signor giocatore. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Andrea Roccabella in regia, ci ritroviamo domani dopo il GR delle 14. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti.